di più, ti dico, capito, vabbè, posso anche uscire, mi bevo un'aranciata, così, posso pure di frutta. La devo prendere da martedì, cioè da domani, alle 9, da martedì fino a domenica. Ah, sì, poi? No, già, devo fare lavoro al dentista, il 10, per mettere gli impianti. Ah, e ti sta facendo prendere l'antibiotico prima? Eh sì. Ah, capito. Vabbè. Ah, già, una volta fatto non vi pensi più. Sì, beh, certo. Diciamo che ho comandato tremendo perché mi stava facendo l'anestesia. Praticamente quasi addormentato. No, era. Per me è la prima volta, c'è sempre la prima volta per ogni cosa, no? Ma non senti nulla, te lo garantisco io, non senti niente, non senti nulla. È un po' fastidioso infatti stare con la bocca aperta così, 3 ore, però purtroppo quello devi farlo. Però per il resto non senti nulla lui. Sì, un'anestesia, no vabbè, quando mi ha fatto, che mi ha levato, quelli che mi ha levato, non ho sentito niente. C'ho un po' la bocca storta, vabbè, mica devo andare dall'altra parte, c'ho tutta la bocca storta dall'anestesia, ma non ho sentito nulla. Tu pensa, c'avevo un dentro del giudizio giù a tutti in fondo, era macchiato, era guasto praticamente, come me l'ha levato? Mi ha detto tra di me, ma cacchio fa quando levo il dente? C'era una lunga, era bianco dentro, non ho sentito nulla, però c'era una voragine. Anche a me mi ha tolto il dente del giudizio. La vorace, poi era bianco, dentro era bianco bello, bianco. Già, è un casino. E poi appena finisco col dentista mi faccio di nuovo tutti gli analisi, tutti i controlli per quanto riguarda i calcoli alla cistifelia. Mi faccio operare. Perché guarda, 2 settimane fa c'ho mal di pancia fisso. Leggero ma fastidioso. Fatti controllare, non ti trascurare queste cose. Giulio! Ok, infatti non è da trascurare, no, quello. Poi cosa stai aspettando? Mi sono cancellato purtroppo questo problema. Prima vai e prima te ne liberi, Luca, no? No, è una stupidaggine, amico, non ti credo che sia, è un intervento molto, molto cretino, per cui non avrei nessun timore. È questione di un paio di giorni e poi sei di nuovo a casa. Perciò quello, se no non puoi prendere niente, ma con caffè puoi bidare nuda. No, quando c'è da fare certe cose bisogna fare subito, Luca, non ti trascurare. Avanti Claudio. Cos'è un'operazione, Luca? Sì, vabbè, lo fanno in cosa, come si chiama, in, come si chiama, paroscopia, così, com'è? Gastroscopia. No, l'intervento lo fanno, come si chiama già, paroscopia, così. Sì, così. Ho capito, con la telecamerina ti fanno un buchettino piccolo con la telecamerina, eccetera, eccetera. Ho capito qual è l'intervento. Fastidioso, no operazione. Una volta che poi te la levano tutto, te la levano la cistifelia, te ne bocano il tutto già. Poi a digerire ci vuole Gesù Cristo. Vabbè, io lo faccio comunque. Prima mi finisco il dentista, sperando che non mi arrivi il dolore, sennò io come finisco col dentista subito faccio tutti gli analisi di nuovo, mi posso operare. Sì, lo so, giù, 2 giorni in ospedale, 2 o 3 giorni. E allora, ti fanno un buchetto nella pancia, tu presente ce l'hai, cosa come dire, ad esempio, una penna, prendo una penna a pino, ce l'hai, presente ce l'hai, ti mettono un tubicino più sottile, molto più sottile di questa penna a pino, di una penna a pino, e con quello poi te la aspirano questo calcolo, perciò non è così, l'ha fatto anche mia moglie, l'avevo fatto, roba di 6 o 7 anni fa, te lo sto dicendo, un paio di giorni e l'ha fatto anche mio cognato, l'ha fatto, sempre anche lui, 7-8 anni fa anche lui. Non è una cosa così, solo che è una cosa che bisogna fare, perché cresce sempre, il calcolo cresce sempre se non Luca, tu lo devi fare prima possibile, perché se no cresce sempre di più e se diventa grande, allora non te lo possono più aspirare, allora ti devono fare il taglietto per toglierlo, ecco qual è la differenza, ho capito Luca? Sì, lo so, ti devo aprire, è vero. Diciamo che non è, anche il medico lo fa operare, perché non è una cosa così tanto per, è una cosa delicata quella. Cazzo, di un stia, mangiamolo qua. È una cosa delicata ed è molto pericolosa, è anche mortale, lo sai. Beh certo, se continui così a trascurarti è ovvio, capita. Il fisico umano non è una cosa di poco conto, uno deve essere sempre perfetto in tutte le circostanze, se no una cosa porta a un'altra e così via. Vai già. Però da un sassolino diventa un cantone. Ma poi il discorso se fosse che lì è un casino, se fosse state Reni, anche Reni lo stesso ti fa soffrire. Quando io ho fatto tutti i controlli, li ho fatti tutti, da analisi al sangue, tutti, l'ecoaddome, tutte li ho fatte, tutte. Quando ho fatto l'ultima pista, mi ha detto la dottoressa che c'avevo anche i calcoli ai reni, cioè i reni che stavano funzionando male. Sì, io qua ho visto mia suocera piangere come un bambino per i calcoli. L'hanno ricoverato anche, l'hanno operato perché si hanno tolto dei calcoli grossi, ma allucinante. Stava piangendo come un bambino. Sì, guarda, ti mando una foto già. Ti faccio vedere cosa. Non so se le hai viste. Le hai viste la foto del cane di Marina? Sì che le ho viste. Già le ho viste. Le hai visto tutti i calcoli? Ne ha un bel. Poverina qua. Poverina. Qua si fermava ogni secondo a pisciare che poi non pisciava neanche. C'era lo stimolo, che lo stimolo glielo davano queste pietre. E ha pagato 250 euro più, vabbè, più le medicine, 300 euro gli è venuto qua. Per rilevare tutto. Per fargli l'operazione. Eccola. Non so, vabbè. Cosa vuoi fare? Lo vuoi lasciare così, curarinto. Se ce li hai, gli animali non li devi trattare male. Ed è lo stesso, non è. Ed è a posto lo stesso. Sei risata, hai guarita. La sei più tranquilla, vaccinata, ha fatto il tuo vaccino da poco, 40 euro ho pagato, nello stesso è a posto, per il momento sta bene, poi c'è anche il collare quello buono, quello che dura 8 mesi, quello se mi ricordo come si chiama. Non gliene metto, io gli metto le gocce, perché il collare a uno che c'è vicino a casa, gli ha messo il collare e gli ha fatto uscire tutto il pelo, gli ha fatto tutto il segno del collare e gli ha fatto uscire completamente il pelo, era allergico. Piovendo sta da voi, minchia, mi è passata l'acqua qua, manco un giardino, si vede. Il problema è se portare il cane stasera, un casino invece. Stamattina mi sono preso, vabbè, la budirene, ma un po' mi sono bagnato. Allora, il collare è seretto già, l'ho pagato, costava 42, scontato l'ho pagato 35, e durava 7-8 mesi. Adesso lo dovrò ricomprare a marzo. Lu, ma non gliene mettete di quei collari, non gliene mettete. Il veterinario è contrario, il mio veterinario è contrario al collare. Io a Filippo le faccio la cura, quella estiva praticamente, in front line, quello lì, le metto sopra la schiena, sotto la pancia, a gocce, ne metto il guanto, glielo spargo bene, mai avuto, io non ho mai visto a Filippo, né quando abitava a Carbonaro, né qua, che vabbè qua ha fatto un trattamento, tutto, è venuta la disinfestazione. Mi ha fatto tutta la strada, tutto in giro al giardino, anti-zecchi, anti-pulci, tutti gli antiparassitari ho fatto là. Però io non l'ho mai visto, perché questo collare qua inietta del, praticamente nella pelle, è un veleno per i parassiti, ed è, non le fa bene al cane, questo mi ha detto il veterinario e non lo sto dicendo io. Prego. Buonasera, chiamo da Sant'Urciugiu, potete avere un controllo? Se arrivi qua da Sant'Urciugiu, allora si a posto. Se controllo voi, anima lunga. Ho girato la direttiva verso il nord della Sardegna, è per quello che arrivo così. La direttiva ti è girata in un'altra regia. Buon anima lunga. Buonasera, per riascoltarti. Ciao Gianino Piurrum. Qui, animalo, e beh. Allora, come va? Tutto ok, grazie a Dio, va. Ho detto, ma non ci aveva San Vito la mantova, e Giulio mi stava spiegando che te l'hanno demolita. Era salito un tecnico, a mia insaputa, papà l'ha fatto venire, si è voluto pagato e la tuta era danneggiata, diciamo, l'ha danneggiata abbondantemente, capito? Però già stiamo cercando di recuperarla. Adesso ce l'ho giù da gente che conosce, mia, anche Claudio, che ha detto che sono delle persone serie che lavorano bene. Mi hanno indirizzato di lì, mi sta facendo dei lavori e poi proviamo a installarla, metto un commutatore di antenne, così facciamo le comparazioni con questa che è rimasta, è autocostruita e la mando a 5. Ma questa qua l'hai messa sul tetto? No, questa qui ce l'ho nel poggiolo, io però vedo tutto da qua, sono abbastanza aperto. Come ti sto arrivando già? E qua arrivi fondo scala, è normale, dai. E io sono in zona, tu mi hai detto che sei al Monte Alto. Sì, no, siamo molto vicini. Allora, guarda, linea d'aria, noi due saremo all'incirca, non penso più di... ma non ci sono 500 metri, nemmeno. Io ti sento chiaro, anche bella di radio, la radio è bella. Cosa stai usando? Sempre lo stesso apparecchio? Lascia perdere, quello lì aveva fatto fine brutta. L'ho trovato con la circuito stampato, si è spaccato in due. Me ne ho comprato un altro uguale, Gianni, questo l'ho preso da EB a un'altra. Verginello, e poi vediamo di trasferire tutte le modifiche da quell'apparecchio su questo. Comunque questo è l'originale, col microfono anche su originale. È nuovo, soltanto che il mio aveva il frontale cromato. Questo qui è tutto nero. Vabbè, da là non lo puoi togliere il frontale. Ha detto che sì, si può cambiare la mascherina, capito? Però già è un po' graffiata là quella mascherina, questa è nuova, è nuovo, questa apparecchio è nuovo, la verità. Me l'ho giudicato su eBay per neanche 120 euro, ho preso in spedizione. Va bene, io non ci sto più giocando, ma prima già giocavo anche io all'asta, vero Cla? Anch'io. Eri anche bravo che ha ripreso quella radio per me, quella il Royce all'ultimo minuto. No, io l'ho provato una volta, me ne butti tu all'ultimo minuto, perché se mancava un minuto vado a cliccare, dico tum, e me l'ha fottita una radio bella, era un vintage bello base, e mi ha fottuto, non faccio più giocato anche l'MLS 200. C'era anche Walter giocando, ma io non sapevo il nick di Walter, quindi non potevo capire che era lui. C'era Walter che stava giocando per quell'MLS 200, c'era l'MLS 200 più un lineare da 300 watt, l'ho preso tutto per 150 euro. Se sei pratico è bello, però io non avevo praticità, mai potuto, dai, non amavo io Gubi. Ciao Gervi, buonasera, ben sentito. Ottimo segnale, quanto sta piovendo, io devo uscire dopo, ma dimmi tu. Allora, chi si può più oggi dove non c'è la vabbè. Avanti Giulio, riprendi. Ok. Sempre sta bene, la batteria comprata l'hai. Sì, sono andato a prendere, guarda, l'ho piazzata, ma non sono proprio così le polarità. Allora, i colori sono uguali dei fili, però praticamente come filo lo spinotto lui è già importante. Quindi datemi una mano, perché io adesso non me ne ricordo più, prima con i microfoni mi rigiocavo, adesso non mi ricordo più come la tua. Ok. Sai come devi fare? Tu ti compri uno spinotto che vada bene al baracchino, seguimi. Poi prendi un pezzo di filo a 4, 5 fili, ce ne vogliono, e li salvi a questo spinotto che attacchi al baracchino. L'altro capo di questo spinotto li spegni tutti quanti i fili, prendi il microfono e lo infili a uno dentro lo spinotto del microfono, così è facile scambiare, non devi stare a salvare niente. Una volta che hai trovato tutti i collegamenti, tu prendi una penna e te li segni su un pezzo di carta e poi li salvi a colpo sicuro. Oh, aspetta, la tiro giù. Partiamo col presupposto che io adesso ho aperto il suo microfono originale, ok? Il microfono, cioè il Jackson. L'ho aperto e mi trovo, io però sapevo, il punto di riferimento alla sinistra del buco dove c'è la vitina per chiudere la struttura di ferro, no? Alla sinistra partiamo con un cavetto giallo. Alla sua destra c'è la massa. Poi via dicendo, c'è un piedino vuoto e dopo mi trovo il rosso. E poi a fianco al rosso c'è il nero. Gli altri due piedini mi rimangono vuoti, perché un attacco a 6 punti. Ok? Io dal microfono ZG, il microfono da tavolo, l'ho aperto e ho gli stessi colori, gli stessi fili. c'ho il giallo, la massa, il nero e il rosso. Li ho collegati alla stessa maniera, però non ci siamo. Io quando lo infilo lui è già importante. E se è quello che ti sto dicendo, fai come ti sto dicendo, che lo trovi in 5 minuti, trovi i collegamenti. Credimi, Sanvin, che in 5 minuti, dopo che ti sei fatto lo spezzone con lo spinotto che attacchi al baracchino, dall'altra parte di questo spezzone ci sono i fili tutti già sferrati. Non fai altro che a uno nel filo dentro lo spinotto del microfono. Ti trovi prima la portante e guardi bene quali sono, e poi ti trovi la trasmissione, la ricezione, e lo trovi in 5 minuti. Sì, credimi, tu mi dirai, caspita, Giulio aveva ragione. Ok, però partiamo già che già uno o due li posso lasciare, perché prendiamo la massa lì vuole, mi dai chi non si può ciambare, per porta di lì vuole, perché se io guardo dentro e c'è il nero della massa e cosa, quello parte già che uno ce l'è già fisso. Poi adesso vediamo, adesso io provo ad attaccare, la portante qual è? Il rosso è. Lascia perdere i colori, tu ricolori, tu fai come ti sto dicendo, prendi lo spinotto, ma attacchi al baracchino con i fili poi spellati dall'altra parte, prendi i fili e li metti insieme e trovi subito la portante, sai che con i due fili li devi trovare, la portante nel microfono amplificato, infilandoli dentro lo spinotto e poi provi. Muovi e provi, capito? Hai già la portante. Dopo gli altri fili che ti rimangono sono la trasmissione e la ricezione, non c'è problema. Lo trovi in un attimo, Salvi. Se tu segui come ti sto dicendo io, 5 minuti di orologio e hai fatto il lavoro, te li segni e poi te li salvi nell'ordine come te li sei segnati con la penna. Il fatto è che non ho un altro bianco per me, arrivo subito. Comunque dai, vi ascolto, dai, adesso mi metto all'opera, dai, che sto riattaccando il salatore. Già la ciappo, la potremmo alla gara. Bianco per me, arrivo subito. Sì, ti avevo sentito qua. Va bene, d'accordo. Capito, Salvi? Anzi che stare a stare saldando e disaldando, così esci fuori di testa. A parte il fatto che bruci anche il pilotto, a forza di saldare e disaldare, saldare e disaldare. E invece fai in quel modo lì, fai. E poi addirittura, se proprio vuoi fare un lavoro ancora più veloce, e poi togli anche lo spinotto dal microfono, prendi i fili e li colleghi a mano, così, i fili li colleghi a mano e ti trovi la posizione. Una volta che hai visto il collegamento, prendi un pezzo di carta, come ti sto dicendo, e te li segni e te li metti nell'ordine, nel coso, nello spinotto, tranquillamente. Guarda, ti sto dicendo che 5 minuti e fai il lavoro. Stavo pensando, c'ho un po' di QRM. E ho detto che è strano, ma non è che l'antenna sta imbarcando acqua, bruh. E invece cos'è? Questo affaretto che mi ho piazzato, sta col faretto e il QRM si abbassa. Riatta col faretto e sale il QRM. Per forza, quasi a LED, il faretto a LED Un faretto a LED per estirni da 10 watt, è potente, illumina il giorno qua dentro. Ho costruito un mobiletto sino giù, ma carino, mi bello. Non sembra neanche fatto a me. È uscito veramente, veramente bello, le mando un paio di foto su WhatsApp. Con lo sportello, il lucchetto, ho tutto qui dentro, non può accedere nessuno tranne che io, perché ho la chiave. E perché non sai che i LED creano interferenze? Togli le LED e mettiti la pallina normale e si appostano, così almeno non hai problemi di interferenze. Avanti Luca, scusate il monologo fra me e Sabino. No, non ti preoccupare, aspetta a vedere. Allora, vediamo un po'. No, vabbè, io la pallina sono spenta a LED, ma a me non me ne fa interferenza. Ma a me adesso mi serve per forza, perché devo ancora fare questo lavoro. Però mi fa QRM, me ne sono accorto adesso. Vado ad attaccare e il QRM si abbassa. Come l'accendo, sale il QRM, ce l'ho E alto, è a 5. Allora, sai cosa? Che la tela ce l'hai lì. Poi la tela quando la sollevi, che è più lontana, non te la fa più. L'antenna di lì deve rimanere terrazzo, proprio da fare. Vabbè, non la solleverai un po'. La posso anche sollevare, cioè, ma viene male. Già la punta dell'antenna sta arrivando già a livello di testa. Capisci? Cioè la parte bassa del tetto, diciamo, Tu pensa quanto rende che quell'antenna, se ce l'hai così, piazzata come stai dicendo, sai, tu pensa se la dovessi mettere veramente libera sul tetto, libera in tutte le parti. Guarda, sono sicuro che arrivi non meno di 9,15 qua, perché arrivi già 9,5 modulati, arrivi quasi 9,10 con microfono normale. Figurati un po' poi quando metti il microfono per l'amplificato, sicuramente 9,10 lo fai pieno, la modulati naturalmente, sto sempre parlando del modulato. Sicché vedi bene che l'antenna nella posizione in cui è sicuramente perde, perché come tu sai, o se non lo sai te lo dico io, la game mass, o meglio il dipolo, perché è un dipolo in verticale, deve essere lontano da qualsiasi ostacolo almeno 5 metri, anche dal pavimento, dal tetto, per dire, dalle tegole eccetera, no, se lo metti sul tetto, per rendere veramente al massimo. Ok, avanti Gianni. Gianni e Claudio, ho sentito che hanno fatto bianco. Niente, stavo dicendo, no, io ce l'ho a un metro dal muro. Poi comunque c'è qualche tubo, un tubo che va da un terrazzino all'altro, a quello di su, e che comunque rimane vicino. Diciamo che non è una posizione ottimale, però così, dal primo momento è così, dai, mi interessa farmi una modulata, poi ci vedrà se possiamo migliorare. Dai, vi do un attimo, un ascolto, che faccio un paio di tentativi con questo microfono, dai, che lo voglio sentire andando. Batteria completa. Ehi, una parasole che ho preso, che ci aveva proprio di processare quando schiaccio la PDT. Io glielo va bene. Ok, d'accordo, salve, a dopo allora. Cioè immaginati, Luca, se te la vicino al muro, e qui mi arriva 9 più 5, quasi 9 più 10 modulate, per cui va più che bene un'antenna autocostruita da servizio, vedi tu la già lì, le misuri, mi devi dare la tassa per averti dato le misure. Avanti Luca. Ma gli altri va bene, vabbè, qua a fondo scala. Va bene, poi lui lì in posizione, ha avuto una posizione per i punti, Porto Torres, Alghero, è in alto, capito? Questo la mette sul tetto, praticamente diventa pari come Franco. Una cosa volevo chiedere, visto che siamo in linea con Luca, siamo più o meno in linea, Luca è la mia sinistra, ma siamo molto vicini. Molto più forte di me arriva Luca con la Mantova. Dai, arriva te con lo stesso segnale. 9,5 e 9,5, non c'è problema. Va bene. Allora già stai radiando un pochettino, dai, no. Prova anche tu Luca insieme. Dai, ripete voi che faccio pressionature, voglio provare questo microfono di tavola. E anche io mi devo assentare almeno una ventina di minuti circa. Cioè, se temono 20, una ventina di minuti, dai. Alle 7 sarò qua, e devo uscire un attimino, arrivo su, dopo la commissione. Va bene, d'accordo Luca, ci sentiamo dopo allora, dai. Adesso sono le 7 meno 20, quasi, meno 23, dai, per l'esattezza, 22, là, e siamo lì. Va bene, allora sono rimasto solo, dai. Fai pure, sai, quando hai finito di saldare, chiamami. Ci metto poco, è tutto acceso qua. Un attimino, devo invertire, allora praticamente ho la portante invertita perché si attacco lo spinotto, lui mi va direttamente in trasmissione, però non mi sembra che trasmetta neanche, perché non esce l'audio. Aspetti che lo infilo a vedere se mi sente. Lo so anch'io. Sì, non sento niente, sapi. Guarda, se tu infili il microfono, cioè lo spinotto, e vai in portante, non è così che deve funzionare. La portante deve funzionare quando schiacci la portante, quando schiacci il PCT. Se ti funziona direttamente quando attacchi lo spinotto, non è così che deve funzionare. Cambia fili, cambia collegamento. Vai Gianni. Bene o male già ci arriva, a furia di provare già ci arriva. Sì, ci arriva, sì, certo che ci arriva. Già lo credo, ma poi dopo tutto non è che sono quattro fili che già si trova la combinazione giusta. non c'è problema. Ma come stavo dicendo io, se faceva quella cosa, solo che non ha lo spinotto, il problema è quello, che non ha lo spinotto, sarebbe un lavoro fatto in 5 minuti. Io quando faccio i microfoni, cioè quando devo collegare un microfono o in un baracchino, faccio sempre così. Utilizzo lo spinotto, lo spessone, sferato, e poi nello spinotto del microfono stesso si infilo il filo uno alla volta. E dunque tranquillamente trovo la portante e trovo subito anche la ricezione, senza stare lì a perdere troppo tempo e a diventare pazzo per trovare i contatti. Sì, ma infatti. Mi hanno chiesto una di pazienza, un po' di pazienza ci vuole fare queste cose, perché semmai a farlo alla prova, se non è che hai i contatti giusti e di colleghi e basta. Ma se no devi stare a cercare, a fare, e un po' di pazienza già si trova. Sì, beh certo che sì, si trova sì, con un po' di pazienza è ovvio, ma alle volte uno è fortunato e lo trova subito, anche al primo tentativo i collegamenti, però difficilmente si riesce al primo tentativo. E allora per non stare sempre saldando e disaldando bisogna fare come ho detto, e così una volta che hai trovato il collegamento ti disegni, ti fai lo schemino con la penna e poi risaldi a colpo sicuro sullo spinotto, giusto? Tutto lì. Beh sì, infatti. Salvini, a che punto sei? Va bene già, anche lì da te sta piovendo già. Ma non lo so, perché la sera l'ha abbassata, l'ho abbassata per non sporcare i vetri. Ok, è fatto bene, anch'io ho già chiuso le persiane qua, cosa c'è da fare, state già buio, per cui non è caso. Poi il caso strano, siamo già 3 giorni in questa strada con la lampadina proprio vicino di fronte a casa che non accende. Ogni tanto, tutte le volte che piove un po' forte, si fulmina sempre questa lampadina. A questi dell'Eni, ragazzi, ancora non hanno capito che devono cambiare il portalampade, perché tutte le volte che piove forte, quel lampione si spegne. E allora ritornano, rimettono la lampadina nuova e così via. Ma cambia il portalampade, almeno non la cambi più la lampadina, invece no. Sono una massa di pellegrini, so, per carità. Signora, Gianni. Eia. A Ecce. Eia. Vado un po' per le contatte, Gianni, ho fatto, non lo so. Sì, ma c'è un innesco piccolo so. Va bene, Ecce, vediamo. Guarda un po' se ce ne stanno, Giulio Dollaro, come ascolti qua. Sì, io ti sento, ma è basso, sai, è basso di volume. No, va bene, perché allora è innesca. Vuol dire che devi cambiare collegamenti. Allora, sta uscendo la radio, è piatto portante, vuol dire che i collegamenti sono giusti. Ci deve essere qualche altro problema. No, guarda che non è come stai dicendo tu. Devi invertire sicuramente qualche filo. Oppure abbassa il mic gain e alza il microfono, o viceversa. Diciamo più di mic gain. Aspetta, ora lo sta, E innesca sempre. Adesso lo so, oggi. Sì, ma così sono più di mic gain però. E così esce, però la radio è più bassa. Tanta ve l'ho poca massa. Aspetta, guarda se c'è il Mikey, mettilo a zero e devi arrivare con la radio del microfono, non del Mikey. Non capisco, ma sono tutto chiuso il Mikey, c'è qualcosa che non va. Vedo un tiro di massa, che ce l'è poca. Va bene, dai, ritenta un altro collegamento, sarai più fortunato. Avanti Gianni. Vabbè, comunque ci va bene anche prima, con l'altro microfono ci va bene. Ma gliel'avevo detto che usciva benissimo. Con il microfono normale quello usciva benissimo, certo che esce bene. Ma visto e considerato che ce l'ha anche amplificato, adesso appena trova il collegamento giusto sicuramente dovrebbe migliorare ancora la radio. Adesso esce il microfono, però è basso. E appena che aumenta subito innesca, e dunque vuol dire che c'è un collegamento da cambiare. ma io dico che non sarebbe uscito per niente, che erano stati sbagliati i collegamenti, invece sta uscendo, però lo sento anche io, come alzo la modulazione del qua, dal direttamente dal microfono, sento l'innesto dentro il barattino, lo sento tutto. E c'è già tutti i giambai oggi, tu? Adesso proviamo a investire gli altri sotto la fine, ragazzi, prendete. Fai come ti ha detto Giulio, mamma mia che sei dotto me. Fai come ti ha detto Giulio, inizia a invertire qualche filo, può essere che sia anche la massa. Fai come te desideri, che è così, quando innesca è così, poi non stai preamplificando, non sta preamplificando, non sta funzionando bene, c'è qualche filo da invertire. Mamma di tutti, io già vedi, ok. Oh ragazzi, sta piovendo a dirotto, a dirotto. Sono dovuto uscire ad aprire il pozzetto del recupero delle acque piovane perché era pieno. Non ce l'ha fatto le pipine. No, il cazzo di Giugimania lo hai a dire. Ah, c'ho il telefono, me lo faccio preparare e poi vado. Faccio le 8 per mezzo. Ah, ecco. Vabbè, io non sono guardando le luci, non lo so perché sono al buio con le luci blu, le luci notturne. No, aspetta, già, sono le 7 meno un quarto. E fra poco mi alzo a cucinare i funghi. Andavo a fare i funghi stanotte. E dire io. No, beh, noi ho fare un po' di come abbiamo già toccato ieri, oggi mangiamo la pizza. Noi siamo andati a fare i funghi, siamo andati a Samela, vicino a Eura. Abbiamo trovato dei belli antuna, eh. E la zona mia si è andata. E io sempre lì andavo a funghi, perché lavoravo a Perfa, quindi il mio collega è di Erula. E allora andavamo lì, a Samela. A Samela. Samela 1, Samela 2, ve ne è poco di rubi, sì, io. Vai Giulio. Ok, qua, sono anche qua, già sta piovendo, dai. Non è fortissima, però già sta piovendo anche qua. Purtroppo è tempo suo, dovrebbe piovere sino a mercoledì, avremo acqua. Poi dovrebbe cambiare, perlomeno quello che ho sentito dal notiziario del meteo, dovrebbe essere così. Poi staremo a vedere se effettivamente è così e chi lo sa. Boh, vabbè, comunque. Hai visto che la sera d'anno che ha fatto a coso, a Porto Conte e anche a Santa Teresa, un sacco di danno l'acqua ha fatto, mannaggia la miseria. Boh, vabbè, comunque, calamità naturale, avanti già. Da luna in genere, ovvio, sta con la zona lì, quando piove con la zona lì ti pulpi a sciallare a tutto. Io abitavo a mio cognato, c'aveva il garage, no, e c'era la discesa per scendere il garage, lì alla gamba tutto si riempiva l'acqua e non si poteva manco scendere, sì, quando si prosciugava l'acqua, si riempiva tutto l'acqua. A Porto Rotondo, no? A Porto Conte giù. Ah sì, a Porto Rotondo, sì, è vero, io ho sbagliato. A Porto Rotondo, è vero. Capita, quella che aveva le quadrate addirittura c'era l'acqua a un metro dentro nella tavernetta più in su, che era se ne danno. Se puoi immaginare, i pompieri con la pompa d'aspirazione che stavano svuotando la tavernetta, purtroppo quando succedono queste cose sono veramente problemi grandi, molto molto grandi, vabbè, perché ti rovina tutto, ti rovina mobili, ti rovina tutto, purtroppo cosa ci vuoi fare, contro al destino e alla calamità naturale non è che possiamo farci niente, vai già. Invece chi sta ai piani bassi, ai danni superiori ce l'hanno quelli che stanno in basso, quelli che hanno le case singole, eccetera, eccetera, cantine, negozi, se ne fa poco di danno, ma se non ci mettiamo in riga, forse ci siamo svegliati troppo tardi, accorgerci che stavamo inquinando la terra, ce ne siamo accorti troppo tardi, Giulio. L'uomo produce e distrugge anche, è vero che inventa, però tante cose, siamo tutti colpevoli comunque, nessuno può dire che sia esente da colpe, perché ognuno di noi ha inquinato e continueremo a farlo. perché intanto no, non c'è rimedio, non ci sono altri modi, purtroppo la vita è così. Ad esempio, tornando al discorso della plastica, hai visto come hanno inquinato i mari, per carità. Prima questa plastica sembrava chissà che cosa, e avessero inventato chissà che cosa. Non andavano bene il vetro, le bottiglie, eccetera, no. Allora come stanno i piatti, i bicchieri, le posate, tutto di plastica. Ma accidente alla plastica che l'ha inventata allora. Adesso la stanno eliminando. Adesso che il danno è fatto, dopo che i bui sono scappati, allora si prendono provvedimenti. Vai Claudio. Non lo so, c'è una visione sempre all'ultimo. Quando i danni sono fatti se ne accorgono, maledizione. Vabbè, ma sta piovendo un bel, porca miseria quanto sta piovendo. Vabbè, pazienza, avanti a chi tocca. Salvici, sì. E ancora Salvici, invece non ha risolto il problema. E ritornando alle scorse poco fa, tutti inquiniamo. Solo usando la macchina inquiniamo, usando il riscaldamento inquiniamo. Tutti, ma perché ci hanno dato modo di farlo, perché se le macchine avessero fatte elettriche da prima, noi avremmo usato le macchine elettriche a quest'ora. Invece, purtroppo le macchine elettriche sono state fatte adesso perché si vede che c'è inquinamento e ci sono tutti questi problemi. E stanno cercando di tappare il buco, ma oramai il danno è fatto. Sì, ma in effetti è così, purtroppo l'inquinamento c'è, l'abbiamo fatto tutti, per cui adesso speriamo che i governi di tutto il mondo riescano a trovare la soluzione, perlomeno a rallentare, almeno se non altro, questa malvagità dell'inquinamento, perché non è possibile che si possa continuare in questo modo. Poi adesso si sono aggiunti anche il fatto dei televisori. Tu immaginati quanti televisori vengono rottamati e quanto inquinamento ci saranno, anche con i televisori in tutta l'Europa, Gianni. Guarda che sono milioni e milioni di televisori, anche quelli sono inquinamento. È un po' come le macchine lo stesso. Quando sono carcasse sono inquinamento, per cui l'uomo produce e distrugge anche. Vai Claudio. Vabbè, le macchine già le riciclano, nell'ambiente delle macchine le riciclano. Però tutto è inquinamento, cioè ogni cosa che fai è inquinamento, c'è poco da fare. Non è possibile andare avanti così perché la natura si sta ribellando, non si era mai sentita roba così, terremoti, i vulcani in eruzione, sì, ma smetteva dopo un po', adesso è sempre in eruzione questo vulcano, va a finire che sommerge tutto il paese, cazzo. Cioè, speriamo di no, ma perché la lava sta finendo in mare, però intanto sono pericoli che si corrono. E vabbè, purtroppo la vita è questa. Abbiamo fatto strafatte, adesso la natura, e contro la forza della natura non c'è Cristo che valga. La forza della natura è tremenda. Stai nel caso, Sarri. Sì, ma è così, Gianni. Purtroppo il progresso e anche il regresso. Tante volte il progresso si manifesta in regresso, perché è così. Piace a tutti il progresso, tutte le cose che abbiamo avuto, che abbiamo e che avremo ancora, però ci sono tantissime cose che ne avremmo potuto fare a meno. Io penso così, Gianni. Beh certo che sì, e poi non c'è solo l'inquinamento terreno, c'è anche quello atmosferico, l'inquinamento. Se stai provando il microfono c'hai un innesco, lo sai. C'è anche quello, capito? Già adesso hanno fatto il 5G, da quando c'è questo 5G in casa il telefono non mi funziona più bene. Adesso che sia quello, che sia altro, non lo so, però hanno messo in punto i 5G vicino a casa, enormi, in quella storia nuova che porta a monte, questi ripetitori enormi. Eh beh sì, in effetti è così, anche quello poi. La telefonia lo stesso inquina. Oh, anche noi inquiniamo, nel nostro piccolo. Con la nostra radiofrequenza, anche noi, nel nostro piccolo inquiniamo. Sembra così, ma anche quello è inquinamento, Gianni. Perché appunto, dicevo, che tutti quanti noi siamo colpevoli della disfatta atmosferica e dell'inquinamento che purtroppo si sta verificando. È così o già? Funziona, ma sei massissimo. Guarda un po', 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ma adesso va bene. L'angolazione c'è, ma adesso ci tocca un fischio e poi non c'è amplificazione. Va bene come radio, si sente, quello lì ti sta dicendo va bene perché lo stava innescando, però non c'è amplificazione. Innescato, ti compro la modulazione. Ma secondo me cosa io sto vedendo che c'è poca carta e poca massa di cellulare perché non so se poca roba. Salve, prendi le mani il microfono, vediamo un po', prendi le mani. Cosa prende in mano? Il microfono a tavolo è. Cosa prende in mano? Sto 1, 2, 3, 1, 2, 3. E in mano per vedere se c'è massa, se con la mano ti fa la massa la dovrebbe fischiare. Anche se la tavola in mano non puoi pigliare ma te si è. Guarda un po', prende scaldo ora il microfono. No. Guarda un po', 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, non sta in scaldo. Giulio, come mi ascolti tu? Adesso sta in scaldo. Adesso sta innescando, poc'anzi no, si è uscito più forte, è questione di massa. È quello che tu... Allora, ora, anche io dico che è questione di massa, qua è il filo di massa che ce n'è poca, pochi fili. Allora, voglio fare una cosa, prendi un filo e te lo colleghi dalle vittine che c'ha sotto il microfono, lo colleghi allo spinotto del baracchino che entra nel baracchino, lo colleghi lì e vedi un po' se la massa. Adesso ci provo, vai. Guarda, sapete, prima devi tentare a mettere due fili insieme, il filo della trasmissione con la massa. E provare per vedere se è quello. Ma poi erano attaccati tutti a uno. Adesso cosa li metto? Attaccati assieme. Appoggiaglielo, come lo metti il microfono. E vediamo se innesca, no? Quale? La massa con? La massa, prova a mettere la massa insieme a quella della trasmissione. Perché può essere che sia quello. Non è la prima volta, non vi succede. Infatti non è la prima volta. Tante volte due fili vogliono insieme. Dipende dal tipo della radio che ha e dal microfono. Dipende, non è detto. Per cui, va bene, dai, comunque. Avanti qua. Ecco, era capitato anche a me una volta un microfono, stavo vendendolo tre vesi, già non sono pratico. E poi alla fine toccavo la massa e mi dava l'amplificazione. Praticamente andavano messe due fili assieme. Il rosso, ma non mi ricordo se era rosso o nero o rosso e bianco, non mi ricordo, andavano assieme. Perché erano cinque fili e in pratica andavano utilizzati quattro. Tutto qua. Vabbè. KK, avanti già. Ma io qua ne ho solo quattro, questo microfono a tavolo, posso mettere due assieme. Sono collegati a uno spinotto a 5, due rimangono liberi, ma anche il microfono originale, sono quattro fili, però sto guardando la massa del microfono originale, è bello grosso il filo, in questo filamento invece di massa che ho qua, non c'è nulla, non c'è nessuno, poca roba, adesso prova a mettere. Un pezzo di capo dalla carcassa e te lo metto qua a massa allo spinotto. Vediamo se lo fa ancora. Perché non è che abbi questa amplificazione così esagerata, E in più stai anche fischiando qui, non so. Vai Gianni. Il fischio ricopre quasi la modulazione. Qua è un bel forte il fischio, ricopre quasi la modulazione e lui è sotto fondo. Te la devi fare con la prova col filo, fai con la prova, se la massa è quello lì. Se la massa la risolvi con quel filo lì, come l'ho fatto io nell'MC60, che me lo faceva con lo 140, quel lavoro lì. Ho messo questo filo, questo cavo un po' grosso, e l'ho fatto passare dentro il coso, dentro la spirale. E poi l'ho attaccato al coso, allo spinotto. E non me l'ha più fatto. Vabbè, ma l'MC60 è un microfono particolare. Io non ne ho mai avuto questi problemi, non so perché, non lo so, perché dipende anche dal piano di massa, da come è fatto l'impianto, se c'è qualche rientro di RF, il 60 è particolare, ma il più 3, l'MV più 5, più 4, con i microfoni dei baracchini, quelli vanno, a volte ci sono dei collegamenti al contrario, capito? Va bene. Sto usando 60, poco fa stavo andando con la Roni, se va bene, ripeti giù. Ok. Sì, infatti non è così, non è detto che i colori devono combinare, assolutamente. Ogni microfono e ogni baracchino ha i suoi colori e poi questo bisogna combinarli come si deve. Non è che devi rispettare colore per colore, assolutamente no. In effetti è così. Va bene, ma comunque. Vai Gianni. Io vado e vi saluto perché sono andato a cucinare, dai. Comincio a cucinare e poi mandiamo su. Devo andare al lavoro, dai. Ci sentiamo, carissimi. Mi ha fatto piacere, dai, ci sentiamo alle prossime. Ciao, alle prossimine, tante cosce belle e buon fine serata. Vai Giulio. Ok, ciao Gianni, state bene, dai. Grazie per la chiacchierata, a domani, ciao! Ciao a tutti, ciao Salvi, ci sentiamo, dai! Andate, buonasera! Ciao Gianni, doppio tu, ha fatto piacere ascoltarti. Adesso guarda, ho collegato un filo alla carcassa del microfono e lo sto tenendo appoggiato col dito alla massa dello spinotto al baracchino, che è sempre sottofondo in eco, ok? La devi togliere la mano, Salve, devi fissarla e togliere la mano, se lasci la mano è peggio. No, il filo lo sto tenendo per la guaina, non sto tenendo il coso, ma è attaccato. No, c'è sempre l'innesco. Sì, lo sento anch'io sotto, lo sento dall'apparecchio. Non lo so, non so da fare. Claudio, sono al telefono. Giulia al telefono. Non lo so, Salve, bisogna farlo bene il collegamento. Ma Tester, non ne hai a controllare bene i fili? Certo che ce l'ho, Cla. Oh, adesso ho rimesso il microfono originale suo. Il suo microfono originale, Presidente. La vuoi sapere una cosa, 10 meglio di chi su che riprovendi. Beh certo, se non sta andando bene. Non sta andando bene, c'è qualcosa che non va, capito? Cosa è tutto. Ci devo ragionare su. Certo che ce l'ho il tester, ma i contatti sono giusti, perché lui sta ricevendo e sta andando in trasmissione. Però mi fa questo innesco, questa è roba di massa. È il problema del microfono, capito? Ah, il problema del microfono si ascolta, ha la possibilità di controllare la capsula, a vedere se sta toccando da qualche parte. Se sta toccando da qualche parte? Certo, questo microfono forse ha preso anche colpi, secondo me, ha preso colpi da qualche parte. Scusa, non ho capito, stavo parlando con mia moglie lì. Giulia al telefono, prova col tessere, già sono qua io, vai. No, la capsula è avvolta nel cottone, non sta toccando da nessuna parte, però spalla un po'. Devo vedere qualcosa qua sotto. Poi da mamma ho trovato la scatola, giù pochi i microfoni. Via. Ecco poi palmari bricolari, appiccati, non appiccati, CTE, EPC, Saletta, ve ne sono pochi, Giulia. Ecco. Chi è? Avanti. Roberto, ci sei, Salvetti? Sì, ciao Roberto, buonasera per ascoltarti. Cacca, già non ti sento a sentirti, Salvetti. Tutto a posto. Tutto a posto, stiamo cercando di rimettere su una stazioncina. Ma scusa, ma tu non avevi una mantova sopra, diceva il viadotto, dopo il viadotto, non l'avevi tu? No, quella non è roba mia. No, io ce l'avevo la mantova, ce l'avevo nel palazzo di mamma, ma giù dove c'era il laboratorio, signor Giulio. Ah, giusto, che tu le dici, chi era quello, il barbiere, quello che era sopra, in via Succi? Sì, la tavola che se la vendeva, ma detto no, non la vendo. E la mia è stata smontata da un tecnico che ha chiamato mio padre a mia insaputa e l'ha tutta rovinata. Poi sto cercando di recuperarla, nel momento adesso sto usando una Game Master autocostruita. Sei quasi 9.10, 9.5 è il segnale. Ti ascoltavo con l'altra antenna molto più forte. Comunque ti tiro fuori radio 5 e 9.5 è il segnale, tendente a 9.10. Tu come mi ascolti? Prova a fare un passaggio, Roberto. 1, 2, 3, prova radio, canale 10. Dammi un controllo di radio e di Santiago. 9.15, picchi positivi, quasi 9.20 qua. Quindi va bene, dai. Ok, c'è qualche donato qua su questo canale? Era Claudio, si è sentato un attimo, c'è Giulio Dollaro, Gianni Doppio Rum è passato in QRT, Luca si è spostato per fare la commissione, mi sembra, se non vado errato. Io sto cercando i contatti per questo microfono, però mi sembra di averli trovati nel ZG del coso, l'NB+5. Però mi innesca, non riesco a alzare né mic gain né il coso del microfono, pomello del microfono che innesca maledettamente, perché c'è poca massa per me. Ma io stai uscendo perfettamente, io ti ascolto perfetto, sia di radio che di segnale. No, questo qui è il microfono registrato. Questo va parecchio, l'ho comprato, ero senza baracchi, che poi ne ho trovato un paio da mamma, guarda. Però questo me l'ho comprato all'alto da poco, mi è arrivato da poco. Infatti lo stiamo rovaggiando, è nuovo fiammato. Ma che baracchino è? Si sente bella, pulita e chiara? È un Jackson che mi ho aggiudicato all'alto. Sono eccezionali quei baracchini, c'era anche coso, Gianfranco, bella radio, poi ricevono bene, sono costruzione americana, niente da dire. Aspetta che c'è Muros, Claudio di Muros, tu sei? Sei un po' saturo, il segnale è quasi 9.20, però sei saturo di radio, non è bella. No, non mi piace la radio, sembra... Salutoni, ben ascoltato, è l'amico di Muros, non so se mi tiri fuori a me, io qua sono un po' così in fase di sperimentazione, sono con un'antenna autocostruita. Prova a fare un passaggio che ti controllo. Claudio, ti ho ascoltato, non tanto forte, con un'antenna un po' critica, ma se vedi già si mette a posto e sfascerà i nidi agli uccellini, come si dice. Di nuovo Claudio per Salveri. Claudio, mi dispiace deluderti, non va bene quel microfono assolutamente. Tutto probabilmente è una capsula molto vecchia, invecchiata, non riesce a vibrare come dovrebbe. È tutta la voce impastata, è brutta, non è questione di potenza. Non è cambiato niente da quando sei quasi 9.20, adesso che sei quasi 9.10, non è cambiato niente, è sempre sporca la modulazione. Aspetta, c'è stato qualcuno che vuole entrare, avanti che vuole entrare. Non lo so. Riprendi un attimino tu Claudio, poi facciamo riprendere a Salverio. Vai Claudio, Luna, vai tu Salverio. Salverio, che è arrivato qua sul 10? Dai, io ho finito di telefonare adesso, però devo chiudere. Ciao Roberto e ciao Claudio. Sì, Saverio, non ha sentito che si è allontanato un attimo. Io ero al telefono, 10 minuti, al telefono ero, Roberto. Ero prima in ruota. Vai, vabbè. Eia, ti volevo dire giù, adesso prima di chiudere, ho trovato una persona, un amico per telefono, e questo è un CB tra l'altro, un vecchio CB, si chiama Piero, vi conosce, diciamo, quelli storici, tipo te, tipo Claudio, Tino, lui abita giù nella Buddi Buddi, questo qua, mi ha detto il nome, non mi è attivo, ma non mi ricordo se mi ha detto Galimero, qualcosa del genere, un nome così simile di qualche personaggio. Piero c'ha più o meno una sessantina d'anni, forse qualche anno in più. Non lo so, il nome Piero non mi viene in mente nessuno in questo momento, boh. Non ti ha detto il nome nativo, non te lo ricordi? Vabbè, ci vuoi fare. Pazienza, non so cosa dirti. No, che si sta mettendo la stazione. Lui ce l'ha e diciamo la sera ci ascolta, dice ho sentito a te, ho sentito a Giulio, a Claudio, cioè vi conosce a voi. A me di me non lo sapeva che io ero in CB, perché lui dice ci manca una quindicina d'anni che ci manca. Siccome lui è appassionato di auto d'epoca, c'ha un club, eccetera, eccetera, nella 500 si è messo il baracchino piccolino, però dice ne vorrebbe uno più piccolo. E poi ne ha diversi di baracchini, c'ha un Pluto, c'ha dei Pace, dei generali. Mi doveva mandare le foto, ho detto, mi se interessa qualcuno, ho detto, a chi interessa? Ma i baracchini te li tirano a faccia, perché vai a comprare un uovo costa 100 euro, quelli cinesi fanno più che bene, e ne cosa vanno a spendere i soldi per un baracchino che magari è da sistemare pure. Io sono rientrato, Sì, sì, ok, un attimino, lo so, avanti giù. Non so cosa dite, ma cosa fa? Fai raduni in macchina, fa per caso? Eia, lui c'ha una sostrazione di questi qua appassionati. Ma sei sicuro che si chiama Piero? E non si chiami Angelo, ad esempio? No, Piero, il cognome qua non lo posso dire, si chiama proprio Piero e noi iniziamo la PPP, non diciamo il lavoro, lavora nell'ambito boschivo, dai, così non diciamo particolare. Boh, no, non mi ricordo un nome del genere, non lo so, Roberto, non lo so, ma vabbè, comunque, se si sta piazzando la stazione, prima o poi entrerà e sarà un piacere ascoltarlo. Va bene, dai, riprendilo, Fabi. Ma a me alla fine mi ha tirato fuori, mi ha sentito o non mi ha sentito a Muros, Piero? No, non Piero, no, questo è Claudio, quello di... Tanto è quello di Gianni Capri 2, salve. Ah, come? Chi è Gianni? Il figlio di Gianni Capri 2, si chiama Claudio Chiodo Arrugginito. Aspetta che lo rilanciamo perché stava uscendo male. Ci sei Claudio? Nulla. Salve, organizzati subito e piazzati un'antenna ben messa, dai. Adesso momentaneamente c'ho questa Game Master qua. Sto facendo sistemare da Poddy, che è il fornitore. Il primo elemento della Mantova, che mi hanno danneggiato un tecnico noto qua in zona, che è andato a smontarmi l'antenna da papo a mia insaputa, gli ha preso 50 euro per levarla dal tetto e era danneggiata parecchio. Adesso io me la sto recuperando, perché tanto la Mantova 5 è introvabile, non esiste più in produzione. Però per il momento sto muovendo con questa auto costruita, sembra che qualcosina già vada, mi sento anche 9, Santiago 9, 9, 5 a Porto Torres. E dimmi un po', Salve, cosa ti hanno rotto dall'antenna? L'inizio, l'attacco dove metti il fascettore. L'hanno allargato la mola, hanno allargato i canali perché era ossidata, non riuscivano ad attaccarla. Poi mi hanno tagliato i radiali, dove c'era la bocca di ottone, hanno tagliato direttamente da lì. Quindi io me ne ho dovuto levare tutte le viti, sbloccare, levare le boccole troncate dentro, ricomprare i radiali e la sto rifacendo a nuovo. Ma il piantone e quello di vetronese non l'ha rotto? E se facciamo il taglioletto e andavo di lì dove c'è il laboratorio, guarda, lascia perdere, non dico cosa le avrei fatto. Mi dispiace, tacca, ci avrebbe una bella postazione, ti faccio sentire alla grande, vabbè, dai, ritorneranno i tempi migliori. Giulio, ci sei ancora o lo stai salutando? Sì, ci sono ancora. Oh, sapete, ma chi è quello che fa l'impianto delle delle autoradio, per caso, lui, senza fare nome? Ci siamo capiti, sì, è proprio lui. Non so cosa le è salito in testa a Babbo, io ho mezzo bisticciato con Babbo in quell'occasione lì, perché gli ho detto, ma cioè, lo sai, sarei salito io, l'avrei smontata io, ma te l'ho detto più di una volta. Ma chi mi dava fastidio questa antenna? Sarei salito io con calma, mi avrei fatto lavoro, me l'avrei smontata tutta bene bene, bella ordinata e messa in busta. E poi, nella migliore occasione me l'avrei ripiazzata. Non tutta tagliata, e gli ha dato anche 50 euro per questo lavoro. Ma stiamo scherzando. Sì, ma io ti avevo avvisato, mi hanno detto loro che c'erano complicazioni che dovevo tagliare e glielo ho dato io l'autorizzazione. Bravo, gli ho detto bravo, bravo, complimenti, sia al tecnico che a te. Mi sono arrabbiato parecchio. Certo, non è possibile.